Fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontarti. 1:47 del mattino, sabato 16 giugno del 2018, questa è Risto Radio Convento e non sono ovviamente solo, sono con delle ragazze simpaticissime che non ce l'hanno con nessuno, sono delle ragazze veramente di buon cuore, questo è da dire, è la prima caratteristica che mi viene in mente guardandole e sentendole parlare, la bontà che esce dai loro occhi, dalla loro bocca soprattutto, perché insomma... Ragazze eleganti, ragazze forbite, esatto, bravo, giudiziose. E quindi mi fa piacere farvele conoscere, vedi, una già mi manda i baci e prima mi aveva mandato da un'altra parte, adesso invece mi manda i baci. Chi? Ci siamo? Chi ci siamo? Ah, ho capito, scusa. Ti chiamo? Ah, Mikauk. Aukmik. Vabbè, anch'io, va bene così. Quello che conta però, ah, credevo ce l'ha messa col muro. È una cosa che non mi dicono spesso, per quello che rimango un po' stupito. Tra l'altro mi fa piacere sentire queste belle cose dall'unica ragazza sposata praticamente del gruppo. E quindi sono tutte vere, per quello che sento questa verità. Ah, anche tu. Sento verità nelle sue parole. Quello che conta però, permettetemi di riprendere in mano il filo del discorso, perché abbiamo una ragazza da festeggiare, da celebrare in questa serata, ed è lei, la nostra... Michela! Molto bene, che si fa gli urli da sola ormai. Faccela vedere, faccela toccare. Beh, interessante, potrebbe... Beh, potrebbe essere interessante, nel senso magari a te interessa meno, a noi potrebbe interessare di più. Allora, intanto ti diamo il benvenuto. Ciao. Ma che cosa guarda? Ti ho detto vai al microfono, ha guardato. Ciao. Oh, benvenuta. Michela, da dove vieni? Da Parma. E a Parma si cresce sempre così tanto? Sì. O è un caso? Si annaffiano da bambini. Ah, vi annaffiano, molto bene. Molto bene. Poi ci concimano. Poi vi concimano, non voglio sapere con cosa vi concimano. Ci basta sapere che vi concimano. E ma tra l'altro dite alla ragazza che ha capito come si fanno i figli, ma non come si mettono le cuffie. E quindi fatele un corso accelerato di inserimento cuffie sulle orecchie. Che era più difficile fare figli che mettere le cuffie, ma evidentemente a lei riesce meglio un'altra cosa. Insomma, ognuno è portato per... Non è facile perché non hai capelli. Esatto. Lei ha un impedimento e quindi capisco. Sì, no, ma è un gruppo che adoro. Infatti non vedo l'ora che finisca questa serata per non rivedervi più. Non è vero, scherzo. Chi è che si sposa? Lei è la pagnotta? La pagnotta si sposa. Diventi calzone. Sì. Che bello. Allora cuoceremo un bel calzone in tuo onore. Per l'estimo, perché... No, vabbè, questo non ve lo racconto perché è meglio che rimanga internos, anche perché lei se ne vergogna parecchio. Comunque sia, riassumo brevemente la serata. Questa ragazza, insomma, siamo andate a conoscerle. Erano... Chi? No, non è vero, lui è uno sposo, non possono limonare. Dicevo, queste ragazze siamo andate a conoscerle inizio serata in modo molto tranquillo e blando. Ne siamo usciti 2 minuti dopo che tutte avevano un soprannome, ma... Adesso cerco di uscirne in modo elegante. Non avevano loro un soprannome quanto una parte del loro corpo, che non vi dirò, ma che avete capito tutti. Insomma, parlando del più del meno, siamo riusciti a dare un soprannome alla parte del corpo più interessante. C'è del vetril, noi ci teniamo all'igiene. E quindi non specifichiamo, se no lei si vergogna. Quello che vogliamo sapere è invece, Michela, cosa festeggi tu questa sera? Io al nubilato. Bene, dicelo al microfono così ti sentiamo. Addio tutti. Io al nubilato. Molto bene, con chi ti sposi e quando? Con Francesco il 7 luglio, fra 3 settimane. Fra 3 settimane, le hai proprio contate sul calendario? Sì. Hai fatto le X rosse, sì. Da quando hai cominciato a fare le X? Un anno e mezzo fa. È bellissimo che tu me lo racconti, perché io ti voglio bene, è bellissimo. Però se tu non lo dici al microfono... Un anno e mezzo fa. Oh, molto bene. È che sono seduta, sto comodo. No, guarda. Ma se mi alzo non ci arriva il microfono. Avvicinati al microfono, avvicinati. Un anno e mezzo fa. Anche se brava. Okay. Però no, meno ormoni, perché ci hai messo molti ormoni in questa frase, ma prendilo pure, fai come se fossi a casa tua. Quindi è da un anno che tu, e mezzo che tu metti le croci sul calendario ogni giorno. Sì. Che è lunga, Ma no, è volata. 365, 4, cosa sei arrivato? 450 più o meno. Non lo sa neanche lui, vabbè. No, niente. Non lo so. Insomma, un anno e mezzo, bene, quindi ci tieni molto. Sì. Immagino di sì. Vi conoscete da tanto? 9 anni. 9 anni, quindi sì, diciamo che è arrivata anche ora di concretizzare molto bene. E chi ti accompagna qui questa sera, dici un po' chi abbiamo. Ti sei portata, se non te ne vergogni ovviamente, abbiamo Fata Snella. Abbiamo Patafiocca. Abbiamo Patanduia, no. Patanduia, giusto, Patanduia. Patata farcita. Patata farcita. Che solo questa sera trovate a 2,20€. Calda, appena uscita dal forno. Con ripiene di pomodoro e mozzarella. E poi patatouche. Bene, così abbiamo mantenuto inalterate le loro identità. Anche se dobbiamo essere sinceri, Patasnella non era nata Patasnella. Poi diciamo che l'abbiamo ribattezzata Patasnella perché ci teneva. Non ho detto niente io. Cioè, nemmeno sappiamo chi è chi. Quindi non ti preoccupare. E ha un cerchietto con dei piselli in testa comunque. Allora. E non è la sposa. Beh, no, perché di solito il cerchietto con i piselli lo porta la sposa. Esatto, quindi annuisce con piacere e con orgoglio. E con orgoglio. Sono tutte amiche, colleghe, cosa vi unisce? Ah, vabbè, colleghe ma amiche. Colleghe ma prima colleghe o prima amiche? Più colleghe o più amiche? Ci siamo conosciute a lavoro, però amiche. Ma è come direbbe Marzullo, l'amicizia. No, vabbè, niente, dai, lasciamo stare. Tutte amiche, anche tu sei amica di te amica stessa. E poi lei è mia futura cognata. Tua futura cognata? Giusto. Ah, sì, è vero, giusto, perché mi dicevi che il tuo ragazzo è calabrese, non so se di origine o comunque sia. Di origine. Ok? E quindi può essere che essendo Patanduia diventi. Quindi tutto ciò significa che almeno la domenica pranzo ti aspettano dalle 4 alle 5 ore di abbuffata, esatto. Con prodotti tipici. Preparata, dai, dacci un po' di menù calabrese. La pastachina. Vai, che ci piace questo. Soppressata. Regionalismo. La parmigiana, i polpetti. Ah, i polpetti. I braccioli. Cos'è che voto le diamo? Preparata, eh? Sei documentato. Ma cucini anche o a sbaffi solo? La domenica sbaffo per ora. Sì. Però se mi ci metto sono capace anch'io, dai. Beh, ma ti sei appassionata anche alla loro tradizione culinaria o rimani fedele alla tua? Ma non diventerò mai brava come loro, quindi. Vabbè, ok, però magari. Nel sud li cucinano loro, io magari faccio quelli del nord. Ah, bene. Brava, grazie. Ti prendiamo come notaio. E piatti del nord, in cosa sei forte? Nei primi. Tipo? Qualsiasi. A tutti, a caso, indipendentemente. Sì. Ma sei anche una che tira la pasta e tutto? Ho provato e poi li ho buttati i tortelli che ho fatto. Ecco, quindi hai deciso di prenderli. Vabbè, ma ci piace la sincerità e l'onestà nelle e persone. E non ti dico i gnocchi. Non me lo dire. Li ho lanciati giù dalla finestra. Ah, però, e hai investito qualcuno anche? Io? Li ha mangiati il cane, sì. Quindi qualcuno li ha apprezzati. Tra l'altro salutiamo il cane. Rocky, amore mio! Esatto. Che dopo aver mangiato le gnocchi è diventato tipo un coccodrillo o un elefante, si è tramutato, no? No. È bellino. Ok. Va bene. Allora, volete dire qualcosa? Volete salutare? Perché volete? Non dite niente voi? E perché ti lasciamo? Salutate a sto cazzo. Giusto! Giusto, che è il vero protagonista di questa serata, dopo le pata tutte qua. È il vero protagonista della serata, sto cazzo, quindi lo salutiamo. Ciao sto cazzo. Ciao. Grazie, ciao. Lei l'ha salutato con molta passione. Ma lei è appassionata. Magari. C'è il tuo innamorato. Che carino. Mamma, fare di meglio. Mamma, come te li scegli bene. Come te li scegli bene. Il gusto che c'hai tu. Mamma, che gusto che c'ha questa ragazza. Che c'ha ragazza. Cercatela su Facebook, Patasnella, aggiungetela. Patasnella per tutti. Patasnella for you. Patasnella. Ciao. Patasnella, come 899. Esatto, no, addirittura. Come le pagine certificate, risposta garantita entro un'ora. Sì. Di solito risponde entro un'ora. Contateci. Molto bene. Allora, ragazze, grazie mille a voi. Buona fine serata. Ciao, grazie. Buon divertimento e ancora auguri alla nostra Michela. Ciao.